Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Nona favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Il signor Antonio Molino, a cui toccava la volta del dire, così incominciò. Favola nona. Filomena, giovanetta, posta nel monasterio, gravemente s'inferma, e visitata da molti medici, finalmente Ermofrodita vien ritrovata. Grandi sono, graziose donne, e segreti della natura e innumerabili, né uomo al mondo che quelli immaginar potesse. Laonde mi ho pensato di raccontarvi un caso, il quale non è favola, ma intervenuto poco tempo fa nella città di Salerno. In Salerno, città onorevole e copiosa di bellissime donne, trovavasi un padre di famiglia della casa di Porti, il quale aveva una sola figliuola, che era nel fior della sua bellezza, né passava il 16° anno. Costei, che Filomena si chiamava, era da molti per la sua bellezza molestata e addimandata in moglie. Il padre, vedendo il pericolo grande della figliuola e temendo che non le avvenisse qualche scorno per essere così stimata, deliberò di porla nel monasterio di San Iorio della città di Salerno, non già che facesse professione, ma che le donne la tenessero fino che ella si maritasse. A costei, essendo nel monasterio, sopravvenne una violenta febbre, la quale era curata con ogni sollecitudine e diligenza. Andorno al principio la cura di lei alcuni erbolai, che con gran giuramenti promettevano in breve tempo farle recuperare la pristina sanità, ma nulla facevano. Il padre le mandò medici pratichi e eccellenti e alcune vecchie che promettevano darle rimedi presentanei, che subito guarirebbe. A questa bella e graziosa giovane s'era grandemente infiato il pettignone, il quale era venuto a guisa di una grossa palla, per il che era molestata da tanti dolori, che altro non facea che pietosamente lamentarsi, di modo che parea essere giunta all'ultimo termine della sua vita. I parenti, mossi a pietà della misera giovane, le mandarono cirugi degni e molto approbati nell'arte cirugia, i quali, ben visto e esaminato il luogo della infiazione, altri dicevano doverglisi sopprapporre radici di altea, cotte e miscolate con grasso di porco, perché levarebbero il dolore e la infiazione. Altri, altre cose, e altri negavano che far sì dovessero alcuno degli rimedi allegati. Tutti finalmente furono d'accordo che tagliarsi dovesse il luogo infiato per rimuovere la materia e la causa del dolore. Il che, deliberatosi, vennero tutte le monache del monasterio e molte matrone, con alcuni propinqui della graziosa giovane. E uno di detti cirugi, il quale di gran lunga tutti gli altri avanzava, prese il coltello feritorio, percosse leggermente e con grande strezza in un volger d'occhi il luogo infiato, e perforata la pelle, quando si credeva che di tal buco uscirne dovesse o sangue o marza, ne uscì un certo grosso membro, il quale le donne desiderano e di vederlo si schifano. Non posso astenermi dal ridere scrivendo la veritade in luogo di favola. Tutte le monache, stupefatte per tal novità, piangevano da dolore, non per la ferita, né anco per la infermità della giovane, ma per la lor causa, perciò che elle avrebbero piuttosto voluto che quello che palesemente è occorso fosse intravenuto occultamente, imperciò che, per onor suo, fu subito mandata la giovane fuori dal monasterio. Or quanto l'avrebbero carissimamente dentro conservata. Tutti i medici non potevano più da ridere. E così in un tratto la giovane risanata divenne uomo e donna. E riferisco per bugia quello che è la verità, che di poi la vidi con gli occhi miei vestita da uomo con l'uno e l'altro sesso. Fine della storia. La signora, vedendo la favola del molino esser giunta ad un ridicoloso termine e conoscendo che il tempo velocemente correva, disse chi il dovesse con l'enimma l'ordine seguire. Fa egli, senza tener la compagnia bada, così disse: «Son figlio senza padre, a madre figlio, e spesso a lei contra mia voglia torno. Con il mio forte e saporito artiglio, altri compiaccio, ed altri inganno e scorno, e perciò che non vuò di alcun consiglio, opro così la notte come il giorno. Figli non tengo, e men figliuola alcuna, che consente così la mia fortuna». Non sapeva immaginarsi alcun che significar volesse l'enimma dal molino recitato, ma Cateruzza, a cui secondo l'ordine il dir toccava, disse: «Altro non significa, signor Antonio, il vostro oscuro enimma, se non il sale, il qual non ha padre, e la sua madre è l'acqua, alla qual spesso il figliuol ritorna. Egli col suo sapore piace e dispiace». Fine della nona favola della tredicesima notte. Registrazione di Roberto Cofini.